non ce la fanno. I belli muoiono tra le fiamme, sonniferi, veleno per i topi, corda, qualunque cosa. Si strappano le braccia, si buttano dalla finestra, si cavano gli occhi dalle orbite, respingono l'amore, respingono l'odio, respingono. Non ce la fanno, i belli non resistono. Sono le farfalle, le colombe, i passeri che non ce la fanno. Una lunga fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco. Una fiammata. Una bella fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco, al sole. I belli si trovano nell'angolo di una stanza, accartocciati tra ragni e siringhe, nel silenzio. E non sapremo mai perché se ne sono andati. Erano tanto belli. Non ce la fanno. I belli muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Amabili e vivaci, vita e suicidio e morte, mentre i vecchi giocano a dama sotto il sole nel parco.